giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Più stranieri in regione, permessi di soggiorno raddoppiati per protezione, in netto calo quelli rilasciati per lavoro. Treni Frecciarossa Trieste-Milano fermi per un investimento in Veneto, viaggiano regolarmente i convogli regionali. Avanzano al porto di Trieste i lavori con fondi PNRR, dalla piattaforma logistica alla stazione di Servola al Molo Settimo. Sghiaiamento del lago di Barcis, intervento atteso da anni, la Giunta chiede un finanziamento ministeriale da 400 milioni. Isola della Cona ha realizzato un bypass idrico per proteggere la riserva naturale Foce Isonzo dall'innalzamento del mare. L'industria cerca giovani, ma la fabbrica sconta ancora scarso appeal. Iniziativa per spiegare a 20.000 ragazzi il lavoro del futuro. 12:31 minuti, buongiorno da Francesca Terranova e Rita Micoli. È aumentato il numero delle persone straniere residenti in Friuli Venezia Giulia, raddoppiati i permessi di soggiorno rilasciati per la prima volta e aumenta anche il numero degli stranieri disoccupati. L'appello del centro studi IDOS, che ha appena presentato il report Immigrazione 2023, l'immigrazione non è più emergenza, ma realtà a lungo termine. Aumentano significativamente i permessi di soggiorno rilasciati per protezione a cittadini extracomunitari nel 2022, passando dal 28% al 31,6%, e calano altrettanto significativamente i permessi per lavoro dal 27% al 18%. In Friuli Venezia Giulia i nuovi arrivi per motivi umanitari sono molto maggiori rispetto al quadro nazionale e molto minori quelli per motivi professionali. Al centro Balducci è stato presentato il dossier statistico immigrazione, a cura del centro studi e ricerche IDOS, compilato da 110 autori e sostenuto dall'8 per 1000 alla Chiesa Valdese. Da Zuiano l'invito a smettere di gridare al lupo e considerare l'immigrazione come fenomeno globale e a lungo termine. Jens Hansen, pastore delle chiese metodiste valdesi di Udine Gorizia. Dobbiamo uscire da questa scatola dell'emergenza e inventarci delle vie strutturali. La popolazione residente con cittadinanza straniera è in crescita in Friuli Venezia Giulia del 2,2%, sono 115.585. Tra loro gli ultra 64enni sono circa il 6%, fascia d'età che tra i residenti italiani rappresenta invece il 29% del totale. Paolo Attanasio, coautore del dossier e referente regionale di IDOS. Noi siamo uno Stato, un Paese in forte recessione demografica, l'inverno demografico, qualcuno ha detto addirittura l'inferno demografico. E che cosa facciamo? Puntiamo sulla natalità, giusto, benissimo, però c'è anche un altro sistema, anche molto più immediato, perché la natalità, poi i bambini devono anche crescere prima di poter essere avviati al lavoro, quindi passa una generazione. Stride il ripristino dei controlli alla frontiera con lo slancio per Gorizia, Nova Gorizia, capitale della cultura nel 2025, è stato detto. Da qui l'appello dei vescovi di Trieste, Gorizia e Capodistria, raccolto da Don Paolo Iannaccone. Il confine non deve essere un motivo di divisione, ma la necessità di trovare quel cum finis, quel fine comune che ci aiuta proprio a trovare nell'altro una ricchezza. Zuiano di Pozzuolo del Friuli, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Muore investito sui binari in Veneto tra le stazioni di Montebello e Altavilla. Questa mattina è successo verso le 9:30, treni con almeno 3 ore di ritardo. In particolare sono 2 quelli interessati per noi qui in Friuli Venezia Giulia e sono il Frecciarossa 9718, partito da Trieste verso Milano, che è fermo a Vicenza dalle 9:36, e il Frecciarossa 9707 Milano-Trieste, fermo dalle 9:24 a Lonigo. Anche il Frecciarossa Milano-Venezia è fermo dalle 9:30 a Verona-Porta Nuova. Il traffico ferroviario è tutto fermo in attesa dell'intervento del giudice per gli accertamenti previsti. I regionali invece viaggiano regolarmente. L'altro ieri il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il massimo organo tecnico consultivo dello Stato, ha dato l'ok al porto di Trieste per il progetto della nuova stazione di Servola e per la bonifica di quelle aree, costo 180 milioni di euro. Questa mattina ne abbiamo parlato a Buongiorno Regione con il presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino. Sentiamo. Avanzano in fretta al porto di Trieste i lavori di ampliamento finanziati con il PNRR, obiettivo rispettare la scadenza del 2026. Tra i progetti da portare a termine con le risorse del fondo complementare al piano di ripresa c'è il potenziamento della piattaforma logistica, gestita insieme alla Hala di Amburgo, società dove MSC sta acquisendo quote. Zeno D'Agostino, presidente dell'autorità di sistema portuale dell'Adriatico orientale. Dalle parti di Servo in generale, a prescindere dalla piattaforma, abbiamo altri 180 milioni di euro di finanziamento. Siamo ormai alle battute finali di quella, anzi è arrivato proprio l'altro ieri l'ok da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il progetto dei 180 milioni per la nuova stazione di Servola, per la messa in sicurezza e le bonifiche di quelle aree. Lo scalo triestino è il primo in Italia per traffico ferroviario, movimenta il 42% di container e semirimorchi via treno. In particolare il molo settimo, in fase di allungamento, è record in Europa per il collegamento con la ferrovia. Il porto mira a utilizzare le infrastrutture già esistenti. Noi scarichiamo i container, li carichiamo su treno, in alcuni casi li portiamo a Cervignano e Cervignano per esempio diventa il nuovo centro dal punto di vista logistico di quello che avviene sulle banchine del porto. Quindi in questo modo evitiamo di costruire nuove infrastrutture. Da sempre il porto è stato il collegamento privilegiato tra le rotte marittime e i corridoi europei, ma la tensione internazionale obbliga a un ripensamento continuo delle tratte. È chiaro che la guerra in Ucraina ha impattato da queste parti, ma è anche chiaro che impatta molto anche la crisi medio orientale. Quindi noi siamo sempre pronti, i terminalisti sono sempre in grado di aprire nuove rotte commerciali con nuovi paesi, perché ogni volta che un paese chiude si aprono altre opportunità. Immaginate anche quello che è stato il corridoio che noi abbiamo aperto con l'Ucraina via ferrovia, anche su questo terminal, ma anche sulla piattaforma logistica, per cui bisogna sempre essere pronti. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Con le intensissime piogge dell'altro ieri torna d'attualità le criticità idrogeologiche del territorio. Siamo andati a Barcis per fare il punto sui problemi di sicurezza e i progetti per lo sghiaiamento. Il servizio. Ad ogni evento di piena la comunità di Barcis guarda con apprensione alla situazione del lago. La situazione peggiora ogni volta. A che punto siamo, sindaco Claudio Traina, con la messa in sicurezza di questo territorio? Diciamo che dopo la realizzazione di quelle due importanti opere che la comunità aspettava da tempo, mi riferisco al ponte e alla realizzazione del terrapieno, adesso stiamo andando avanti con la legge 13 del 2022 al collaboratorio del lago di Barcis, diciamo un tavolo tecnico organizzato apposta per risolvere questo problema. Un problema appunto annoso che diciamo voglio sperare che preveda appunto lo coinvolgimento del territorio. Il problema diciamo non può prescindere dalla costante messa in sicurezza sicuramente dell'abitato, dalla realizzazione di una viabilità in destralago e di un secondo ponte, dal coinvolgimento del concessionario nell'asporto del materiale nel lago, dal trasporto delle ghiaie, e sicuramente dal coinvolgimento del territorio, perché è un problema che non è solo di Barcis ma di tutta la Valcellina. Questo comune non ha un ufficio tecnico ed ha anche difficoltà ad affrontare il peso della burocrazia. Questo è un altro dei problemi, diciamo tutti i comuni della montagna, specialmente quelli piccoli come il mio, noi siamo in carenza di tecnici. Io personalmente non ho un tecnico da un anno, sono da 4 anni responsabile dell'ufficio tecnico, e ci rendiamo conto che la burocrazia è altrettanto penalizzante dell'assenza dei tecnici. Se non riusciamo a togliere la burocrazia, a sburocratizzare almeno su questioni importanti di vitale importanza per il territorio come questa, credo che non arriveremo da nessuna parte. Barcis, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Il personale della stazione biologica dell'isola della Cona, assieme al consorzio di bonifica della Venezia Giulia, ha realizzato un bypass idrico a tutela del comprensorio territoriale della riserva naturale Foce Isonzo. L'opera consente di far affluire acqua dolce proveniente dal fiume nelle paludi limitrofe all'isola della Cona, bilanciando così la pressione esterna dell'acqua marina, che a causa del progressivo innalzamento dei livelli di medio mare stava apportando un contributo salino eccessivo per il delicato equilibrio ecosistemico dell'area, rischiando di compromettere un habitat di interesse comunitario e assolutamente unico nell'Alto Adriatico. Grazie a quest'opera il patrimonio faunistico stanziale e migratorio della riserva può mantenere il proprio rapporto vitale con l'ambiente, giovandosi di un continuo monitoraggio e bilanciamento tra acque dolci e salate. E ora diamo uno sguardo al tempo. Il cielo è da nuvoloso variabile sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 19,5 gradi. A Gorizia 17,5. Udine e Pordenone 16. A Tarvisio 14 gradi. Tolmezzo 12,5 gradi. Forni di Sopra 10. Piancavallo e Sappada 8 gradi. Sul Monte Zoncolana e Monte Lussari 5. Sulla costa Lignano e Grado 17. Le previsioni dell'ARPA per questo pomeriggio: cielo da nuvoloso a coperto con nuvolosità più consistente in montagna e più sole sulla costa e sulle zone occidentali. Sulla fascia orientale e sulle prealpi possibili deboli piogge, forse qualche rovescio temporalesco. Dalla sera possibile acqua alta sulle zone più basse della costa. Nella notte fino alla tarda mattinata di venerdì piogge abbondanti a ovest, intense ad est e anche temporalesche. Sulla costa soffierà libeccio sostenuto con probabile acqua alta e mareggiate, poi progressivo miglioramento con cielo poco nuvoloso e vento da nord-est. In serata nuovo peggioramento con possibili piogge e temporali. E sono 4 gli indagati per la morte di Lorenzo Parelli, il ragazzo di 18 anni, morto il 22 gennaio del 2022, ultimo giorno del suo tirocinio in un'azienda friulana, la Burimec di Lauzacco di Pavia di Udine. A confermarlo l'avvocato Stefano Buonocore, legale del titolare dell'azienda metalmeccanica e della stessa società, iscritti nel registro degli indagati insieme a 2 dipendenti dell'azienda. L'operaio che stava accompagnando Lorenzo nelle attività di quell'ultimo giorno di stage, un altro dipendente che aveva funzione di tutor. Tutti sono chiamati a rispondere di omicidio colposo, di violazione delle norme in materia di sicurezza e omissione di controllo. Uno dei 2 dipendenti, ha fatto sapere l'avvocato Buonocore, non lavora più alla Burimec, ma per motivi che non sono legati alla tragedia di quel giorno. Sapevamo che la chiusura dell'inchiesta sarebbe arrivata, ma naturalmente ha riaperto una questione sofferta per il mio cliente, ha riferito Buonocore, benché nemmeno lontanamente paragonabile al dolore sopportato dalla famiglia di Lorenzo Parelli. I legali ora hanno 20 giorni per preparare la strategia difensiva, ma potrebbe essere chiesta una proroga considerata la complessità del caso. Nessun commento dal legale della famiglia Parelli, l'avvocato Stefano Fruttarolo, che fa sapere di non aver ancora ricevuto comunicazione ufficiale della chiusura dell'inchiesta. L'industria della regione ha bisogno di giovani, ma pochi sembrano rispondere all'appello. Per avvicinare gli studenti agli istituti tecnici post diploma prende il via una serie di convegni che arriveranno a coinvolgere 20.000 ragazzi per far conoscere loro il mondo delle fabbriche moderne e vicino a casa. Abbiamo sentito il presidente di Assofond, l'Associazione Nazionale delle Fonderie. Aziende in difficoltà nel reperire giovani neodiplomati, una problematica sempre più attuale. Le cause sono da ricercare nei pregiudizi verso il settore siderurgico, la fabbrica sinonimo di sporco e fatica, e verso gli istituti tecnici. In realtà oggi le opportunità che metallurgia e meccanica offrono possono fare la differenza. Una serie di convegni, Metal 5.0, vuole ribaltare il concetto. Lo spiega Fabio Zanardi, presidente di Assofond. Abbiamo processi innovativi, abbiamo nuove tecnologie applicate all'automazione, alla modernizzazione, abbiamo prodotti che necessitano di ricerca e sviluppo, quindi le nostre aziende e le nostre fabbriche sono effettivamente dei contenitori di opportunità professionali molto interessanti, e dobbiamo essere magari più bravi a narrare questa cosa qui, perché magari negli ultimi anni ci siamo dedicati troppo al fare e poco al mostrare effettivamente quello che siamo. L'industria in Friuli Venezia Giulia genera il 25% del PIL, quando la media italiana è del 18%, ma servono i giovani per farla andare avanti. Alcuni di questi scelgono l'estero, attratti da una remunerazione più alta. Il fatto di poter offrire buone opportunità professionali e buone retribuzioni è la possibilità di avere una crescita per l'azienda. È chiaro che purtroppo nel sistema Italia, avendo una fortissima differenza tra quello che è quanto erogato dall'azienda e quanto effettivamente percepito di netto dal lavoratore, ecco, questo non ci mette nelle migliori condizioni per poter essere attraenti da questo punto di vista. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Imprese digitali tra prospettive e opportunità di crescita, se ne è parlato a Trieste alla Camera di Commercio della Venezia Giulia, dove è stato fatto il punto sullo stato dell'arte della digitalizzazione in Italia e in Friuli Venezia Giulia. Microimprese, il 98% del tessuto economico del Friuli Venezia Giulia investe ancora poco nella digitalizzazione, 2.500 euro l'anno, e succede di fatto così in tutta Italia, anzi forse in questa regione le imprese sono praticamente tutte connesse con percentuali più alte del resto del paese, soprattutto impegnate nella cybersicurezza. In Camera di Commercio di Trieste questa mattina si è svolta una tavola rotonda di Assintel che si occupa proprio di stimolare le aziende a puntare su ICT, quindi sul digitale, sulle nuove tecnologie. Noi siamo con Gianluca Madriz, vicepresidente di Confcommercio. Ci sono strumenti che aiutano e potenziano questi soldi che la piccola impresa può investire, tipo l'articolo 100, perché è importante? È importante perché, come dicevamo prima, c'è una necessità di evolvere la specie. Noi siamo una delle categorie più importanti, quella della distribuzione delle microimprese, che ha una necessità di evolvere velocissima. Gli strumenti che mettiamo in campo oggi, che già di fatto esistono, la legge 100 l'abbiamo citata, della regione, attraverso questo strumento noi abbiamo la capacità di iniziare questo percorso di evoluzione. Perché lo dico? Perché le microimprese spesso e volentieri sono restie ai cambiamenti, sono arroccate sui loro concetti base che ritengono essere tradizione, cultura territoriale, che non va abbandonata, assolutamente non va abbandonata, ma l'evoluzione della specie, se così si può definire, oggi ha, e lo stiamo dimostrando, ha un'accelerazione che deve essere immediata, e questa accelerazione deve metterci tutti, nessuno escluso, nella condizione di interagire in un mondo globalizzato, avere gli strumenti per poterlo fare. Gli strumenti ci sono, e ci sono anche gli strumenti a sostegno di questi tipi di investimento, e quindi noi siamo pronti a farlo. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. E parliamo ora di vaccinazioni. Asugi comunica che per dare risposta immediata alla popolazione, sabato prossimo 28 ottobre è stata aperta una giornata per le vaccinazioni Covid e antinfluenzali dalle 8.30 alle 15.30 con prenotazione tramite CUP, web app e farmacie. Le vaccinazioni saranno effettuate in via dei Ralli 3 a Trieste. I posti disponibili sono al momento 175, eventualmente ampliabili se le richieste dovessero aumentare. Un viaggio nell'Artico alla scoperta dei maestosi ghiacciai e delle terre del nord Europa. Il fotografo friulano Davide Bortuzzo sarà il protagonista della serata, presentando immagini e video. Gli spettatori avranno l'opportunità di ammirare i ghiacciai di Svalbard, Groenlandia e Islanda attraverso gli occhi del fotografo, che condividerà le sue esperienze legate a questi territori. Gli ultimi giganti di ghiaccio, questo è il titolo dell'evento, che avrà luogo alle 20.30 questa sera nella sede del Club Alpino Sezione di Tolmezzo. Concluderà la serata Renato Roberto Colucci, glaciologo dell'Università di Trieste e ricercatore dell'Istituto di Scienze Polari del CNR. Sentiamolo nella nostra intervista. Spiegherò un po' come, perché sono importanti i poli, perché è importante l'Artico nel sistema climatico globale e che cosa sta succedendo in Artico. Lei personalmente è preoccupato? La comunità scientifica è preoccupata da decenni. La preoccupazione non è cambiata. Tutto quello che si era predetto 30-40 anni fa, o che avevano intuito due secoli fa i primi scienziati che ipotizzarono cambiamenti importanti qualora la combustione di combustibili fossili fosse aumentata, tutte quelle cose si stanno perfettamente avverando come erano state previste. Eppure c'è ancora chi siede sugli scranni del potere e continua a dire che non è vero. Immagino lo facciano per mero interesse economico. Mero e anche un po' miope. Sì, il problema è che al punto nel quale siamo non possiamo neanche pensare di chiudere tutto. Purtroppo abbiamo bisogno di un supporto energetico tale per sostenere, massiccio per sostenere tutte le attività che la comunità internazionale, che la civiltà svolge. E purtroppo, nonostante gli allarmi, nonostante la conoscenza e la scienza, non si è fatto un granché. adesso si comincia a fare quello che bisognava iniziare a fare decenni fa, perché allora non saremmo arrivati a questo punto e ci saremmo organizzati per preservare l'atmosfera. Primo giorno del Filo dei Sapori a Tolmezzo, che fa da vetrina alla cultura enogastronomica della Carnia. Questa decima edizione ambisce a battere il record di 80.000 presenze dello scorso anno, un centinaio, gli stand del mercato contadino, alle 19 l'apericena a Palazzo Frisacco con visita guidata alla mostra fotografica Music Stars, reportage dedicata a Gigliola di Piazza. Presenti per l'occasione anche 5 birrifici artigianali carnici, coinvolti anche 50 studenti dell'Istituto Paschini Linusio di Tolmezzo e gli studenti dell'Istituto Agrario Solari e della Scuola di Formazione Agricola CEFAP. Promuovono i rispettivi istituti con uno stand in Piazza Centa, curano le degustazioni e svolgono compiti di accoglienza turistica e supporto nelle varie attività. Si intitola Territorio e Folklore, è un documentario che presenta tutti i gruppi folcloristici regionali e le aree geografiche in cui ciascuno di essi è stato fondato e svolge prevalentemente la propria attività. In anteprima alle 20:30 nella sala teatrale Madrassi di Udine, promotrice dell'operazione l'Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia APS. La prima del filmato cade nella Giornata Nazionale del Folklore e delle Tradizioni Popolari istituita nel 2019. Adesso parliamo di arte. Fino al 5 novembre al magazzino 26 a Trieste la mostra personale dedicata alla triestina Luisia Comelli in arte Luis, per celebrare i 70 anni di attività della pittrice, che è ancora in attività, un centinaio di opere realizzate dal 1953, dipinti a olio dedicati ad una personale interpretazione delle vedute di mare e del paesaggio naturale, ma anche ritratti. Un'esistenza trascorsa tra gli amati colori, i pennelli, una natura di mare, di cielo e di roccia e il sorriso dei suoi tre bimbi. Così Luisia Comelli ha trascorso la sua vita e questo raccontano i suoi dipinti nella mostra antologica al magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste. Luis, dedicata ai 70 anni di attività della pittrice, è curata da Marianna Cerboni e Lucia Lalovic Toscano. Dai dipinti in mostra, un centinaio, si intuisce una meditata assimilazione da parte dell'artista dei valori umani della vita che si esprime nei ritratti e negli autoritratti densi di carattere e di partecipazione. A ispirare la pittrice sono stati sempre l'azzurro del cielo e del mare, della splendida costa Duinate, il vento intriso degli spruzzi salati e il verde selvaggio della costa. E nel raccontarli, Luis si è dimostrata sempre interprete di grande sensibilità, capace di tradurre sulla tela, attraverso un gesto espressionista, la luce e l'anima della sua terra. La rassegna è visitabile fino al 5 novembre. Trieste, Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Alle 18 nella Galleria del Kulturni Dom di Gorizia sarà inaugurata la mostra della pittrice Irina Ganiceva dal titolo Miraggi dell'anima tra legno e colore. Irina Ganiceva è nata nell'estremo nord della Russia ed ha compiuto i suoi studi a San Pietroburgo e a Vladivostok. Trasferitasi in Italia all'inizio degli anni 90, ha esposto i suoi quadri nella Galleria d'Arte di vari paesi, dagli Stati Uniti America, l'Austria, dall'Italia alla Francia. Ganiceva vive e lavora a Gabria, in comune di Savogna di Sonzo. In chiusura alcuni altri appuntamenti, la rassegna Chiavi di Aladura prosegue con l'incontro con Gianmario Anselmi, professore ordinario di letteratura italiana all'Università di Bologna. L'appuntamento è dedicato all'umanità attraverso i personaggi dei Promessi Sposi alle 20:30 all'Auditorium Vendramini di Pordenone. Terzo appuntamento del corso Diamo Vita al Futuro del Centro di Aiuto alla Vita di Trieste, che avrà per tema Camminiamo Insieme, a cura della dottoressa Monica Steiner, psicologa e psicoterapeuta. Appuntamento alle 18 nella sala di via Donizetti 5, l'ingresso è libero. Un convegno sul valore pubblico del bilancio degli enti locali e l'assegnazione di un premio nel ricordo di un revisore dei conti che il rispetto di questo valore ha sempre coltivato. Appuntamento organizzato dall'ANCRE, l'Associazione Certificatori e Revisori Enti Locali, dalle 15 in Palazzo Montereale Mantica a Pordenone. Si parlerà di teoria dei giochi e ragionamento strategico alle 14.30 nella lezione seminario che si terrà all'Università di Udine nell'aula 3 del Polo Economico Giuridico di Via Tomadini. Interverrà Pierpaolo Battigalli dell'Università Bocconi di Milano. La conferenza si terrà in lingua inglese. E per le iniziative del secondo convegno itinerante sulle battaglie della ritirata di Caporetto alle 17.45 a Udine alla Biblioteca Ioppi, presentazione del libro Preti in battaglia e cappellani militari da Caporetto alla fine della guerra di Paolo Gaspari. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale, in regia Federico Comar e Eugenio Giuffrida, in redazione ha collaborato Valentina Veneruso. Da Francesca Terranova e Rita Micoli grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.